167. Fritto di finocchi. Taglieteli a spicchi, nettateli dalle foglie più dure e lessateli in acqua salata. Prima di metterli nella pastella numero 156, asciugateli e infarinateli. 168. Carote fritte. Queste carote possono servire di contorno a un fritto quando non ci sono più gli zucchini. Senza sbucciarle, tagliatele a filetti sottili lunghi un dito, salatele e dopo qualche ora, prese su così umide, passatele nella farina e scosse da questa, mettetele nell'uovo, rivoltatele nel medesimo e presi con le dita i filetti a uno, gettateli in padella. 169. Fritto di pesche. Prendete pesche burrone, non tanto mature, tagliatele a spicchi non troppo grossi e come le mele e i finocchi, avvolgetele nella pastella numero 156. E spolverizzatele di zucchero dopo cotte. Non è necessario sbucciarle.